Drago. Non muori tu, Nisi, cum fratre, et sorore sua, interficiatur, qui sunt sol et luna. Suo fratello e sua sorella. Che sono il sole e la luna. Giunga da estrarre il drago. Fratello sorello, il drago. Non muore. Il drago in terra. Non muore. Se mai ucciso. Da suo fratello, nemmeno abbastonate, e sua sorella, che sono arpie, il sole e la luna.